A pane e burro rock and roll, sono le 8. Spaccate! Quest'oggi nel reparto sveglia vogliamo svegliarvi così. Li avete già riconosciuti? Gli Aerosmith di Mama Kina! Ah, oggi risveglio, ragazzi, è venerdì, eh? Non ci si può svegliare dolci il venerdì, bisogna svegliarsi subito belli rocchettoni, ok? Ma nello Zingarelli Treves, rocchettoni si può dire? Secondo me sì. Grazie alla laboriosa redazione di Pane, Burro e Rock and Roll, che poi si consta di una sola persona. Cosa fa Freak? Sta facendo ormai. Ringraziamo il grande Isaac, che da solo riesce a scovare notizie per farci svoltare la giornata. Isaac Rizzi, lo stagista staccano vista, esatto. Oggi andiamo ad approfondire un pazzo del rock and roll, il grandissimo Little Richard. Era, sentite qui, il 5 ottobre del 1957, quando a Sydney, nel corso del suo tour australiano, Little Richard dichiara ai musicisti della band di voler rompere con lo show business per dedicare le energie a Dio. Il problema è che questa svolta è legata a un accadimento avvenuto ieri, che tra l'altro abbiamo anche ricordato nell'almanacco, ovvero il buon Little Richard afferma che il satellite russo Sputnik, lanciato la sera prima, è un segno di Dio contro gli spiriti del male di cui è pieno il rock and roll. Praticamente una biura. Little Richard ha in qualche modo misconosciuto il ruolo della musica rock nella sua vita. Cosa che potrebbe finché avvenire. Non abbiamo nulla contro questo cambiamento di idea, e la cosa strana è legarlo al lancio dello Sputnik, che sì, che è un po' strano. In ogni caso, per dimostrare la sua ferma volontà di allontanarsi dal mondo del rock and roll, getta nel fiume diversi anelli del valore di alcune migliaia di dollari e più tardi si accosterà a corsi di teologia e seminari girando gli Stati Uniti con la Little Richard Evangelistic Team. Fantastico. Colpo di scena. Solo in America, negli USA, possono accadere cose di questo genere. Ma io immagino Little Richard a Sydney mentre parla con i suoi musicisti, con gli orchestrali. Molliamo tutto. Non so a quale punto della tournée. Comunque, immagino il pensiero dei musicisti che lo avranno guardato un paio di volte e avranno detto: questo è uscito pazzo. Sai che come predicatore la vedrai molto bene, Frick? E infatti, colpo di scena. No, come Frick, e infatti. Però. No, esca da questo corpo. Sì, d'accordo. Allora parliamone. Parliamo di questa forza che imprime energia anche al rock and roll. Questa forza divina che è al rock. Sì, si fermi. Grazie. Sì. Salutiamo Little Richard. Un salutino a Riccardino. Pane, burro, rock and roll. Oh, vedi? Quando facevano rock and roll li chiudevano i pezzi. Così si fa. Grande Little Richard! Lo so che non si dovrebbe fare, ma scusa, io voglio tornare sulla notizia con la quale abbiamo lanciato Little Richard. Cioè, vorrei focalizzare la vostra attenzione su cosa possano aver detto i musicisti di Little Richard quando questo si è presentato a dirgli: no, hanno lanciato lo Sputnik, è un segno di Dio, io mollo il rock and roll. Immaginatevi quei quattro musicisti che pigliavano un santo stipendio con lui a fare rock and roll. cosa possono avergli detto? Io qualche idea ce l'ho, ma non posso dirla in radio. Allora, ho grossi problemi con la connessione in internet quest'oggi, ma il mio cervello mi ha permesso, all'alba delle 8 meno 5 minuti primi, di ricordarmi che essendo venerdì, ieri avevamo dato i numeri del lotto. Non avendo le mail, ma solo gli sms, ho pensato, mannaggia, Carlo, il nostro tabaccaio, magari mi ha scritto, io non lo sto vedendo. Sono corso di là e mi sono stampato la mail. Roba grossa, ragazzi. Roba grossa. Vado a leggere. Da non credere. I 5 numeri di ieri, 6, 10, 20, 17, 34, è uscito un ambo sulla ruota di Firenze. La sfiga vuole che, avendo già giocato la cinquina su Milano, il nostro Carlo non ha preso niente. Per la giocata su tutte l'ambo con 5 numeri paga solo 2,3 volte la puntata, perciò non ho giocato. Fa niente, Carlo. Ti perdoniamo. Su Milano è uscito, beh, per un pelo, va bene, abbiamo beccato un, insomma, abbiamo iniziato a beccare un numero, ecco, questa è la notizia. Ma nel calcolo delle probabilità ce n'è una su 4.005 di fare ambo con 5 numeri esatti. Ma guarda che Dio è in macchina con noi, Carlo, quindi vedrai che prima o poi la facciamo. Ma il commento mi piace. Considerato che è solo la sesta volta che proponiamo i numeri, siamo molto meglio di quei due che danno i numeri in televisione sulla 7 Gold. Rimane la soddisfazione se qualche giocatore avesse giocato la ruota giusta. È vero, magari qualcuno l'ha giocata su Firenze, magari gli ascoltatori toscani l'hanno giocata su Firenze. Questo vuol dire che ci siamo vicini, Carlo, teniamo duro e andiamo avanti. Saluti veloci, allora, questo per forza, sempre a commento dell'amica, della piccola amica che stava andando all'asilo. Che bello ricordare quando accompagnavo mio figlio Albe all'asilo. Ora ha 13 anni, smanetta la chitarra come un fulminato e ha la patente davvero rocker numero 129. Ciao Joe. E adesso devo per forza dar voce a questo altro sms che scatenerà l'inferno. 335 100 7777. Ci scrive una radioascoltatrice genovese. Chiede un aiuto, un consiglio agli ascoltatori di Pane, Burro e Rock'n'Roll. Siate, mi raccomando, sì rock, ma non sempre rock fino al, hai capito? Rock sì, ma con moderazione. Leggo cosa scrive l'amica. Domani quel coglione del mio ex marito viene a ritirare quelle quattro stupidate che ha comprato. Mi piacerebbe tanto lanciargliele dalla finestra. Secondo me sarebbe molto rock, ma sono al quinto piano e credo che il suo avvocato non apprezzerebbe la cosa. Voi cosa mi consigliereste di fare? Gliele facciamo lanciare le cose dal quinto piano o no? Magari quelle leggere, dai vestiti, secondo me. Voi cosa ne pensate? I'm in the sky tonight. There I can keep by your side. Watching the wide world riot and hide now. I'll be coming home next year. Into the sun. oggi il 5 di ottobre. Venerdì, sì. Venerdì. Sempre buona giornata. Sempre buona giornata. Un saluto dal DJ Ariele, eccolo da Roberto Fricantoni. Eccolo qua. Là. Eccolo là, eccoli lì. Le va di fare i compleanni del giorno? Ovviamente no, ma facciamoli, facciamoli, dai, facciamoli. Era il 1922. Quando nasceva un grandissimo attore comico italiano, scomparso purtroppo di recente nel 2003, Ciccio Ingrassia. Ciccio, che insieme al grande Franco Franchi, esatto, ha dato vita ad una delle più esilaranti coppie comiche italiane. Sa qualche altro nome di coppia comica? Vianello e Tognazzi. Bene, bravo. Perché già non l'avrei perché detto Gian, ma sì, omologhiamo anche Fricantoni loro. Fricantoni e il DJ Ariele. E poi non so, Cocchi e Renato. Oh, meraviglioso. Mogole e Battisti. No, quelli erano. Dove era l'intruso? Musicisti. Mi ha beccato. E a proposito di musicisti, passiamo a salutare Brian Johnson, mitico cantante degli AC/DC, che nasceva il 5 di ottobre del 1947. Sottolineo Brian Johnson, sì, e non Brian Jones, chitarrista dei Rolling Stones, sì, che non c'entrava assolutamente. Ma ha fatto niente. Bene a precisare. 1950 nasce Eddie Clark, chitarrista dei Motorhead, detto Eddie Fast Clark, l'Eddie veloce. Ma Fast non era un aggettivo attribuito ai Ramones? Fast Four, sì, rock and roll un po' tutti veloci. Già, lei mi diceva, sì, che Fast è un aggettivo molto usato nel rock. Potremmo fare anche Freak Fast Antoni, volendo, sì, molto volendo questo soprannome, perché Freak è lento e logorroico, tutt'altro che Fast. Mentre nel 1954, classe di ferro, che annata, era il 54, nasceva lo stesso anno di Fricantoni Bob Geldof, sì, musicista, filantropo, sì, paroliere, sì, compositore, chitarrista rock, insomma tante cose. Bob Geldof. 1960 nasce Careca. Sì. Ex calciatore brasiliano. Sì, sì, da, sì, cui, sì, la rima Careca, no, il, sì, giocatore Carioca. Se l'ha inventata adesso o la sa? No, era una mia improvvisazione. Ah, okay, Careca, okay, il giocatore Carioca. Chiudiamo in bellezza, via, che è meglio. 1975 nasceva Kate Winslet, attrice britannica, bella e brava, che salutiamo dai microfoni di Pane, Burro e Rock and Roll. La ricorderà per l'interpretazione di Titanic, la famosa attrice di Titanic. Vogliamo ricordare a tutti che Titanic è il film più visto di tutti i tempi. Sì, Titanic o Titanic del 1997, sì, è stata la pellicola, è stato il film più visto, sì, in tutta la storia del cinema. Sa cosa le dico? Mi dica. Inquietante. Clamoroso. Insospettabile. Times are strange, here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. We'll be right back. Coming home, per la precisione, mama, I'm coming home. Lo zio Ozzy Osbourne, 8 e 23 minuti primi, sempre l'Ariele a pane, burro e rock and roll. Allora, come era prevedibile, il nostro lettore di SMS è impazzito all'amica genovese che chiedeva se lanciare i vestiti del marito dal quinto piano oppure no, visto che oggi i vestiti, tutto in realtà, gli oggetti del marito. Chiedevo aiuto agli radioascoltatori, posso fare una piccola, velocemente, ne sono arrivati tipo 60, tutti in un colpo. Fino a qualche secondo fa non ce n'era nemmeno uno che consigliava di non fare niente. Invece a onor del vero ne è arrivato uno. Il rock è per la pace, il rock è essere superiori, fallo entrare, fregatene. Oppure se non vuoi vederlo, fagli trovare le cose sul pianerotto. Questo è l'unico messaggio pacifico. Gli altri 59 sono una sfilza di consigli, cara amica genovese, che mi sento di non girarti. Fidati, non te li dico. Non te li dico nemmeno, perché molti sono violenti. Molti sono assurdi e quindi non li leggerò. Vado... Ne rintraccerei soltanto un paio che si possono leggere. Prima di tutto, in molti dicono anche, perché il problema dell'amica era, io glieli lancio anche, però non vorrei che poi l'avvocato, ecco, in molti commentavano, fai questo, poi per l'avvocato vengo io a aiutarti. Abbiamo una manica di violenti all'ascolto. Però due mi sento di poterti leggere, che sono due idee abbastanza simili. Una è di Baba, per l'amica genovese: blocca l'ascensore all'ultimo piano, cospargere le scale di olio e accogliere il tipo discinta in compagnia del figlio ventunenne della vicina. Guarda che siete cattivi, E l'altro invece è il messaggio di Ste, che consiglia quello che ha fatto lui. La mia ex, quando è venuta a ritirare le sue quattro cose, le ha trovate tutte messe in ordine nelle scatole. Peccato solo che abito al dodicesimo piano e avevo bloccato l'ascensore. Tra poco testa attitudinale, amica genovese. Non fidarti dei consigli di pane, burro e rock and roll. Cosa avete scritto, ragazzi? Vergognatevi! E quest'oggi, Freak, ce li vogliamo dare un paio di bullini per la loro patente da vero rocker? Bullini? Sì, bulloncini volevo dire, ma non mi è venuto. Una via in mezzo tra bollini e sì, bulli. Sì, sì, sì, sì. Interessante. Io glieli voglio dare, se se lo merita. Io mi accodo, mi aggrego, anch'io complicizzo. Questo vuol dire che è pronto per un ennesimo test attitudinale? Naturalmente no. E voi là fuori invece lo siete oppure no? Io lo sono, parto con la domanda, poi vediamo per le risposte. Va bene, vada, anzi, come direbbe il congiuntivo Paolo Villaggio nei panni di Fantozzi, Fracchia. O Fantozzi, sì. Vadi, vado allora. Oggi parliamo degli Striper. Gli Striper. Sì. Formazione americana di heavy metal nata nel 1982. Ricordati da molti come gli iniziatori del Christian metal, il gruppo riuscì a godere di un certo successo durante tutti gli anni 80 fino al loro declino e scioglimento nel 93. Ma tornando alla loro militanza cristiana, ricordate per cosa furono famose le apparizioni live degli Striper? Guardi, me lo lasci dire, solo negli Stati Uniti può avvenire che esista un gruppo di metallo cristiano, perché il concetto cristiano sembra ben lontano dalla violenza del metal, e no? Invece può essere, e invece così. Gli americani riescono a far tutto. Andiamo con le ipotesi. La prima, la A: gli Striper distribuivano testi biblici al pubblico. Non come gli Skiantos che lanciavano le verdure, maledetti. No, senza offesa. No, per carità, è giusto, è giusto. Noi all'interno del vero rock siamo davvero maledetti. Ipotesi B. Alla B troviamo la seguente risposta. Gli Striper concludevano le loro esibizioni legati alle croci, forse un po' blasfemo, per simulare la crocifissione di Cristo. Facevano questo gli Striper? Ma, ipotesi C. Alla risposta C troviamo la seguente spiegazione. Le apparizioni degli Striper, le apparizioni live naturalmente, divennero famose perché la stragrande maggioranza del pubblico presente era composto da sacerdoti, frati, suore, monaci, insomma religiosi in genere. E la cosa provocò anche una nota diretta dal Vaticano che testualmente definì i concerti degli Striper poco ortodossi, invitando gli uomini di chiesa in generale a smettere di presentarsi e a partecipare ai loro concerti. Avete qualche secondo per fare la vostra scelta e che sia giusta, mi raccomando. Le risposte, come al solito, ve le diamo dopo, e cioè le soluzioni a tra poco.